Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, cari amici. Molti in questi giorni mi hanno scritto chiedendomi di fare chiarezza sul problema di salute di Antonio Cassano. E dai bollettini medici sappiamo che l'ischemia dell'attaccante rossonero è stato provocato da un difetto cardiaco molto comune, ma di cui molti ne sentono parlare per la prima volta. Il forame ovale pervio. Qua in studio con me la dottoressa Lidia Rottavender, che è medico responsabile del Centro Trombosi Humanitas e presidente di ALT, l'associazione lotta alla trombosi. Buongiorno dottoressa Rottavender. Buongiorno a voi. E qui accanto a me abbiamo anche il professor Marco Stramba Badiale, che è direttore della medicina riabilitativa all'Istituto Oxologico di Milano. Professore, buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, dottoressa Rottavender, il forame è un difetto cardiaco molto comune che interessa circa una persona su tre. Ma iniziamo a capire di che cosa si tratta e soprattutto iniziamo a dire che non è una malattia. Esatto, una persona su tre fra le persone sane, non fra le persone che sono colpite da ictus cerebrale. Il forame ovale è una comunicazione normale e naturale che c'è nel cuore del feto. Quando il bambino sta nella pancia della sua mamma, lui riceve solo sangue pulito, perché la mamma respira per lui e filtra per lui. Quindi il sangue può passare indifferentemente a destra e a sinistra del cuore del bambino e questo non cambia. Alla nascita il bambino con il primo respiro cambia le pressioni all'interno del cuore e quindi si chiude questo passaggio fra il cuore di destra, che è quello, diciamo così genericamente, che contiene il sangue sporco, e il cuore di sinistra, che contiene il sangue pulito. Davanti a questo forame di comunicazione, che poi chiamiamo forame ma di fatto è un canalino, non è neanche un forame, si cala una specie di tendina, un po' come quello che avviene per la fontanella, che tutte le mamme conoscono. La fontanella entro un certo numero di mesi si deve chiudere. Il forame, nello stesso modo, entro un certo numero di mesi si dovrebbe chiudere. Non in tutti questo succede. Qualche volta questa tendina che cala davanti e che sta chiusa perché nel cuore sinistro la pressione è più alta che a destra, quindi sta chiusa, qualche volta si può rialzare se non si salda bene. E si rialza quando c'è un grosso sforzo, per esempio, quando c'è banalmente anche uno sforzo per sollevare un peso molto forte, uno starnuto, tutti quegli sforzi che aumentano la pressione all'interno del torace. Quindi la cosa importante è sapere, primo, che il forame ovale ce l'abbiamo tutti. Che tre persone su dieci ce l'hanno chiuso ma non completamente, che ogni tanto si potrebbe riaprire, ma queste persone sono ancora persone sane. Si interviene quando questo forame può causare un disturbo che in alcuni casi è grave, come quello che è successo a Cassano, perché può formarsi un addensamento del sangue all'interno del cuore che passa dalla parte sbagliata e può chiudere un vaso cerebrale. Allora, tra cervello e cuore esiste una relazione molto stretta, è quello di cui vogliamo parlare oggi, e mantenere sano anche il nostro cuore, proteggerlo dai fattori di rischio, conoscere anche la situazione cardiaca può essere molto importante per salvaguardare il nostro cervello. Le passo subito la parola al professore, ma voglio ricordare ai nostri ascoltatori il nostro numero verde 800 24 00 24. E invito le mamme che mi hanno scritto in questi giorni preoccupate chiedendomi se può esserci una relazione tra il soffio al cuore che è stato diagnosticato magari al loro bambino e il forame ovale pervio di chiamarci. Professore. Sì, la relazione fra cuore e cervello è molto stretta, innanzitutto per quanto riguarda i fattori di rischio. I fattori di rischio cardiovascolare, cioè quelli per l'infarto, sono comuni anche al rischio di avere un ictus. Quindi quando noi parliamo di ipertensione arteriosa, di fumo di sigaretta, inattività fisica, obesità, colesterolo elevato, questi fattori possono aumentare il rischio di avere un infarto e aumentare anche il rischio di avere un ictus. Quindi ogni intervento che tende a ridurre questi fattori di rischio, a controllarli, ha un'azione di prevenzione, di protezione sia verso l'infarto che verso l'ictus cerebrale. Sono proprio una coppia, unita. Sono due pezzi importantissimi di un sistema che è un sistema idraulico nel quale c'è la pompa che è il cuore che spinge il sangue e tutto il resto degli organi. Torniamo al nostro forellino, che un forellino non è, ma come ci ha spiegato la canalino. Dottoressa Rottavender, un canalino. Molte mamme chiedono se c'è una relazione tra il soffio al cuore e questo canalino. In genere i difetti che ci sono nel cuore possono, se ascoltati bene da un medico con un orecchio allenato, possono essere rilevati precocemente se questi difetti generano un soffio. Un soffio è un disturbo nel flusso. Sì. In genere il soffio di cui si parla è il soffio legato a un difetto della valvola mitralica, che è un difetto molto comune. Sono quelli che mi hanno chiamato una volta i disturbi, il soffio di crescenza, sì, che volevano dire i soffi del bambino che era in accrescimento. Non sempre un soffio è una cosa preoccupante, certo è bene rilevarlo, quando c'è poi lo si tiene monitorato nel tempo. Il forame ovale di per sé non provoca nessun soffio. C'è una familiarità per questo disturbo, professore? No, direi che non è stata dimostrata una particolare familiarità. E se posso aggiungere qualcosa a quello che diceva la dottoressa Rotavender, ci può essere una chiusura del patent forame ovale, del forame ovale pervio, diciamo nel primo anno di vita, nel secondo anno di vita. Vi sono anche alcuni neonati in cui viene fatta questa diagnosi perché fanno un'ecografia per qualche altra ragione, ad esempio per la presenza di un soffio, poi fanno l'ecografia e trovano casualmente questo piccolo buco. Io credo che si debba tranquillizzare queste mamme, perché che si chiuda o non si chiuda, il rischio è sicuramente molto basso. Solo in casi eccezionali, quando questo forame è piuttosto ampio, allora c'è la necessità di fare un intervento come quello che ha fatto appunto Cassano. Tant'è vero che il professor Carminati ha iniziato con i bambini a fare questi interventi. E in linea con noi abbiamo proprio il piacere di avere il professor Mario Carminati, direttore della cardiologia pediatrica e cardiopatie congenite dell'adulto dell'Istituto di Ricerca e Cura a carattere scientifico Policlinico San Donato Milanese, che ha proprio eseguito stamattina l'intervento su Antonio Cassano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, innanzitutto l'intervento è andato bene, Cassano sta bene? Sì, l'intervento è andato molto bene, più che intervento chiamiamola procedura, perché non è un intervento chirurgico, ma è una procedura interventistica. Ha avuto successo, nessun problema e Cassano sta molto bene. Ecco professore, lei sottolineava, non è un intervento ma è una procedura, ci spiega esattamente in che cosa consiste? Sì, la procedura consiste nel pungere la vena femorale all'inguine, introdurre un catetere, cioè una piccola sonda che viene avanzata fino all'interno del cuore, e attraverso questa sonda si posiziona un dispositivo occlusore o ombrellino, se vogliamo chiamare, che andrà a chiudere la comunicazione tra l'atrio sinistro e l'atrio destro, che si chiama forame ovale pervio. È la procedura che si esegue appunto senza aprire il torace, senza fare nessun taglio, ma semplicemente con una puntura percutanea della vena femorale. Quindi, professore, il paziente è sveglio? Il paziente è sveglio, non ha avuto nessunissimo disturbo, è stata fatta la procedura semplicemente con una leggera sedazione. Professor Carminati, ma in media quanto dura questo intervento? In quanto tempo è stata eseguita questa procedura su Cassano? La procedura ha avuto una durata di pochi minuti, solitamente è una procedura rapida, però chiaramente ogni caso è diverso dall'altro, alcune volte possono esserci problemi tecnici che richiedono più tempo, ma in generale è una procedura che si esegue in pochi minuti. E quando è indicata? Nel caso di Cassano appunto è stata diagnosticata dopo il malore che ha avuto il calciatore, quindi si è risalito alla causa e si è pensato di intervenire, ma in quali casi è necessario farlo? Sì, l'indicazione a chiudere il forame ovale pervio esiste quando in un paziente, soprattutto se molto giovane e senza altri fattori di rischio, gli capita di avere un evento ischemico cerebrale di natura non precisata. Quando questo avviene, ripeto, in un giovane, sano, apparentemente senza nessun altro problema, si fanno una serie di accertamenti e molto spesso non si trova alcuna causa apparente, alcun fattore di rischio se non la pervietà del forame ovale. Quindi è ipotizzabile che la ischemia cerebrale che è successa sia stata causata da una cosiddetta embolia paradossa, cioè un piccolo trombo che è passato dall'atrio destro all'atrio sinistro attraverso questo forame ovale pervio e poi è finito nella circolazione sistemica e è andato in un'arteria cerebrale causando un danno ischemico più o meno importante. Chiaramente questa non è una causa accertata nella stragrande maggioranza dei casi, ma è l'unico fattore di rischio identificato. Quindi quello che è indicato fare è eliminare l'unico fattore di rischio identificato. E questo si può fare appunto con una procedura non chirurgica, quindi con una procedura molto poco aggressiva, che richiede soltanto appunto la puntura della vena femorale, l'introduzione di un catetere all'interno del cuore e l'impianto di questo dispositivo. Professor Carminati, io la saluto, la ringrazio per essere stato con noi. Naturalmente ci porti i nostri saluti ad Antonio Cassano, che so che leggendo i comunicati non ha perso comunque il suo buon umore, anche in sala operatoria, professor Carminati. Sì, assolutamente, era molto sereno, molto tranquillo. Abbiamo chiacchierato subito al termine della procedura, eravamo entrambi sorridenti perché entrambi soddisfatti del buon esito della procedura, quindi tutto bene. Professore, lei di che squadra è? Io sono interista, veramente. E lo sapeva Cassano? Lo sapeva. Grazie professor Carminati per essere stato con noi, buonissima giornata. Grazie a voi, arrivederci. Dottoressa Rotavender, e il caso Cassano ci racconta una grande verità. L'ictus non è una patologia solo da vecchi, ma interessa e può colpire anche i giovani. E Cassano infatti è giovanissimo, oltre a essere un grande atleta, sportivo. Molti si chiedono ma come mai, ritorniamo sull'indicazione che avete dato voi, non è stata fatta una diagnosi, no, prima di questo? Perché in alcuni casi non una diagnosi... è possibile fare screening, no. Non c'è l'indicazione. No, e non avrebbe neanche senso, proprio perché abbiamo detto prima che questa caratteristica, questo difetto è presente in 30 persone su 100 fra le persone sane. Vuol dire che se io entro in un cinematografo su 100 persone, se facessi un esame adatto ne troverei 30, ma sono persone sane per definizione. Ecco, lo si fa quando avviene l'evento. Sottolineiamolo questo, perché un ascoltatore dice beata ignoranza, meglio non sapere. Non è che non si fanno perché uno chiude gli occhi, ma perché non c'è l'indicazione, non ha senso farli? No, ma sicuramente non si fa perché non c'è alcuna prova che ci sia un intervento preventivo una volta scoperto. Okay. Perché sono più i potenziali danni di anche una terapia eventualmente con l'aspirina piuttosto che un anticoagulante, se non si è ancora avuto un evento, rispetto, o anche la chiusura stessa, rispetto al rischio che si ha di ictus. Ok, e noi andiamo a sentire Egidio, che ci chiama da Roma, 800 24 00 24. Egidio, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, desideravo avere... Io ho seguito la prima parte della trasmissione dove la dottoressa diceva che 3 persone su 10 hanno il forame, però non hanno conseguenze e così via. Desideravo chiedervi gentilmente se... che analisi o che cosa potrei fare io, anche per me, per i miei bambini o che altro, per sapere se il forame è aperto o chiuso, perché temo magari... Ecco, questa cosa del forame, grazie Egidio, ha allarmato, ma c'è una cosa curiosa. Noi non ci misuriamo neanche la pressione, cioè nonostante, Egidio, poi lascio subito la parola, ci sono delle campagne per ricordare alle persone di misurarsi la pressione, cosa che possono fare da soli o andare in farmacia. Giustamente però quando un difetto viene evidenziato, se ne parla, arriva ai media, se ne parla in televisione, perché Cassano sicuramente è un calciatore, quindi molto popolare, allora tutti sono portati a fare queste indagini che non vengono, per cui non c'è indicazione, e sono anche indagini un po', come si dice, indaginose. E anche un po' costose, ecco. Ovviamente. Però certo. Detto questo, chi avrebbe senso e quali sono? Io penso che ci sia una cosa da precisare ed è questa: noi ci siamo abituati culturalmente a delegare la protezione della nostra salute agli esami, perché gli esami sono diventati sempre più sofisticati, sempre più precisi. precisi. Allora, è molto importante ribadire che il primo esame che noi dobbiamo fare è su noi stessi e sulla nostra famiglia. Questo io non mi stancherò mai di ripeterlo. Non ha nessun senso sottoporre la popolazione generale alla ricerca del forame ovale, pervio o non pervio che sia. Ha senso fare questa ricerca in un paziente giovane, senza fattori di rischio di diverso tipo, che sono quelli tradizionali aterosclerotici, diciamo, che siamo abituati a ritrovare nelle persone anziane che sviluppano un ictus, quando queste persone giovani sviluppano un evento ischemico cerebrale. Allora bisogna andare a cercare i colpevoli. Il forame ovale, certamente anche in Cassano, non è l'unico colpevole, perché Cassano ce l'aveva fin da quando è nato, e lo stesso accade a coloro che ce l'hanno. Quindi bisogna capire che cos'è che improvvisamente disturba un equilibrio e fa scattare l'evento ischemico. Allora, vorrei dare la linea, che è già in linea con noi, ad Alfredo, che ci chiama da Lecco all'800240024, una puntata per chiarirci tutti i dubbi su questi due organi, che abbiamo visto hanno una relazione molto stretta, si influenzano a vicenda, che sono il cuore e il cervello. Andiamo a sentire Alfredo. Buongiorno Alfredo. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Io 6 anni fa, nel dicembre del 2005, a seguito di una embolia paradossa, tra l'altro presentatasi in maniera anomala, mentre ero alla guida, ebbi un forte giramento di testa con un calo conseguente della vista, una sensazione anche abbastanza strana, perché avevo l'occhio destro, non riuscivo più a vedere. Alla fine, dopo diversi accertamenti, mi riscontrarono questa embolia paradossa dovuta al forame ovale pervio. Quindi un caso Cassano, possiamo dire, sì, uguale. Esattamente. Mi operai attraverso lo stesso intervento che ha fatto oggi il professor Camminati a Cassano. Che mi ha detto, mi ha sottolineato che in realtà è una procedura, no? Perché proprio anche sì, lei... Sì, una procedura, sì, infatti fui sedato, ma... giusto per farmi mi dissero insomma che era giusta una, sì, come dire, una procedura per tranquillizzare il paziente, per cui mi applicarono questo famoso mio ombrellino. Adesso lei come sta? Ha ripreso bene, subito? Bene. Considerando che Alfredo non è un atleta come Cassano, quindi no, infatti io con la domanda che volevo fare, premesso che l'ultima eco cuore che ho fatto, praticamente risulta che questo ombrellino è stato completamente assorbito dai tessuti epiteliali del cuore. E questa, se chiaramente io sono tornato a fare una vita normalissima, faccio anche sport, diciamo così, nel tempo libero, faccio palestra, insomma, ecco, se ci possono essere nel lungo periodo delle complicazioni. Il dopo, il post. Alfredo, posso chiedere la sua età? Io ho 34 anni. 34 anni, quindi questo ribadisce il fatto che la prevenzione, l'attenzione non deve prescindere dall'età. Chiaro. Ma sicuramente per quanto riguarda la chiusura del forame ovale pervio non c'è un intervento particolare diverso da quello che viene fatto in tutti gli altri individui che hanno avuto a qualsiasi età un evento cerebrovascolare. Quindi la raccomandazione che noi diamo è quella di continuare a controllare i fattori di rischio principali di un ictus cerebrale, quindi soprattutto, come abbiamo già detto prima, controllare la pressione, non fumare, tenere a bada il colesterolo e, come lei già fa, fare una buona, moderata attività fisica. Si può fare, si riprende a fare una vita assolutamente normale. Parliamo di riabilitazione. È necessaria una riabilitazione? La riabilitazione è necessaria in quei casi in cui vi è un deficit neurologico importante che determina una disabilità. Fortunatamente la maggior parte delle persone giovani che hanno un problema dopo un ictus determinato dall'unica causa, il pattern forame ovale, non hanno un deficit neurologico così importante da richiedere una riabilitazione, ma nella stragrande maggioranza dei pazienti di una età un po' più avanzata, cioè almeno un terzo dei pazienti che hanno un ictus cerebrale ha un deficit importante, infatti l'ictus è la principale causa di disabilità, e quindi un intervento precoce per ridurre nel maggior modo possibile il danno cerebrale. Questo può essere fatto andando il più presto possibile in un ospedale dove è presente una stroke unit per poter essere sottoporto sottoposti a una terapia acuta, quale appunto la trombolisi, ha sicuramente una efficacia. Il tempo è vita. Noi adesso dobbiamo lasciare la linea ai mercati. 800 24 00 24. Ma se mi è stato diagnosticato questo forellino, è stato diagnosticato il mio bambino, sta facendo attività sportiva, non gliel'hanno controllato, può farla, e se faccio sub e può generare altri problemi, ma il mio mal di testa potrebbe essere causato da, 800 24 00 24. Facciamo così, chiariamoci tutti i nostri dubbi e stiamo sereni. Nel frattempo vi riconfermo, Cassano è stato operato e sta benissimo. Abbiamo avuto il professor Carminati, potete riascoltare anche l'intervista naturalmente scaricando la puntata di Essere Benessere, fatelo sempre anche oggi. Essere Benessere. Siamo ritornati insieme, noi siamo partiti dall'operazione di Antonio Cassano, la chiusura di questo forame ovale pervio che è stata la causa di questo attacco ischemico cerebrale, quando al cervello manca l'ossigeno, no? Per anche pochissimi secondi. Professoressa Rotavender, parliamo sempre di un fulmine a ciel sereno, così si dice, no? L'ictus arriva, pum, e uno. In realtà ci potrebbero essere. Ci sono dei lampi e dei tuoni che preannunciano l'arrivo del temporale. Questo volevo sapere. ci possono essere. Ora, questo nei giovani magari è meno frequente, nelle persone anziane certamente lo è di più. Io penso che dobbiamo rimettere un pochino di ordine in questo argomento. Fino a pochi anni fa si pensava che tutti gli eventi ischemici cerebrali legati alla presenza del forame ovale pervio fossero legati alla formazione di un addensamento di sangue nelle vene delle gambe soprattutto, quindi alla formazione di una trombosi nelle vene degli arti inferiori. Pezzo di questo trombo si poteva staccare, poteva arrivare al cuore, e invece di andare, come è previsto di solito, nel polmone a creare un'embolia polmonare, faceva una strada di accorciamento, andava direttamente nella parte sinistra del cuore, arrivava al cervello, tanto che in alcuni casi, su alcune riviste scientifiche, sono state pubblicate delle immagini molto affascinanti, anche se drammatiche, di un trombo proprio che sta passando, questa gelatina di sangue che passa da una parte all'altra del cuore. Quindi siamo stati abituati fino a pochi anni fa a pensare che questa fosse l'unica causa della cosiddetta embolia paradossa perché passa da una parte all'altra e dall'ictus cerebrale. Oggi sappiamo invece che non sempre è possibilmente identificabile questo trombo, ci sono sicuramente altre cause. Voglio specificare che il forame ovale pervio da solo non può essere responsabile di un ictus ischemico, perché il forame ovale, quando è pervio da quando il paziente è nato. Sì. Allora, perché non ha dato un evento ischemico prima? Perché le malattie cardio e cerebrovascolari su base trombotica o tromboembolica sono malattie da squadra. Ci sono più complici, più fattori di rischio. Non dobbiamo identificarne uno e sparare a quel fattore di rischio e trascurare il resto. Se avviene un evento ischemico in un giovane, ribadisco, è giusto, avendo trovato il forame ovale, chiuderlo, perché vuol dire eliminare un membro della squadra, ma non possiamo accontentarci di questo. Abbiamo Mario da Brescia e Simona da Udine. Mario, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, bella trasmissione, complimenti a tutti. Oh, grazie. Grazie. Oh. Grazie. Anche noi facciamo squadra, vede? A proposito. Sento. Allora, la mia domanda era questa. Allora, innanzitutto io sono molto controllato perché faccio running e faccio anche maratone, però in periodo stagionale buono d'estate pratico anche immersioni subacquee, che non sono uno sport ma sono più una disciplina, con bombole. E se non vado errato, tempo fa, è una reminiscenza, mi dicevano che sarebbe stato opportuno fare un'indagine, facendo questo tipo di attività, un'indagine proprio sul forame. È vero, non è vero, è consigliabile, non è necessario? Questo che volevo chiedere, al di là del running, che bene o male ho già sentito che tutto sommato non dà dei grossi problemi, ecco. Ringrazio. No, grazie a lei Mario. Non dà professore. Sicuramente una considerazione importante, perché l'immersione con le bombole può essere associato generalmente quando c'è qualche incidente, non quando c'è una regolare attività, però può essere associato a alcuni problemi tipo l'embolia gassosa, e così come è stato spiegato, anche l'embolo gassoso in presenza di patent forame ovale, di forame ovale pervio, invece che andare a finire nei polmoni, potrebbe anche andare a finire a livello cerebrale. Siamo nelle ipotesi. Quindi è un'ipotesi, però questo fa sì che si sta valutando anche gli esperti di medicina sportiva proprio questa possibilità che chi pratica l'attività subacquea su base con le bombole possa essere sottoposto a uno screening che è semplice di presenza o meno del forame ovale pervio, cioè la possibilità di trovare questo passaggio di sangue, sì, da una parte all'altra può essere fatto nel modo tradizionale con l'ecocardiogramma e con, ancora più approfondito, con l'ecocardiogramma transesofageo. Ma esiste un esame che non è una passeggiata, che è molto complicato, perché voi mi parlate di ecocardiogramma transesofageo ma esiste un altro esame che si chiama Doppler transcranico. Sì. Che è molto più semplice e che serve a verificare il passaggio di bolle d'aria che vengono iniettate durante l'esame stesso, e se queste bolle d'aria sono di più del normale vuol dire quante bolle? Viene quantificato in... Sì. Viene quantificato? Sicuramente quando ci sono più di 300 bolle è sicuramente importante intervenire. Ma chi ce l'ha? Ma il sub può farlo con sto forame? Poi un ascoltatore mi dice: ma non ha detto quali sono le avvisaglie. Ci arriviamo. Mi lasci fare il mio lavoro, Eros, se no poi mi bacchetta dopo. Allora, il dottoressa. Torniamo un attimo sui sintomi che debbono allarmare. Sì, io vorrei chiudere il sub. Sono d'accordo col professore sul fatto che chi esercita un'attività subacquea, soprattutto professionale, quindi va spesso sott'acqua, aumenta le probabilità, debba sottoporsi, se gli è possibile, a questo esame, che poi non è un esame l'ecocardio fatto correttamente. Da solo l'ecocardio a cui siamo abituati non è capace di vedere il passaggio delle bolle, deve essere fatto con una manovra iniettando una soluzione di salina in una vena, insomma una cosa leggermente più complicata, meno complicata del transesofageo, ma che ci dice qui passano delle bolle. È quasi meno complicata la procedura per chiuderlo che quella Non è vero, perché noi siamo abituati ormai a trattare le cose che facciamo in medicina con una certa, fra virgolette, leggerezza in senso positivo, perché siamo abituati, perché il chirurgo fa il suo mestiere, l'emodinamista fa il suo mestiere. Il problema è che quel paziente è quel paziente che in quel momento subisce un trauma anche psicologico. Quindi torniamo un attimo al sub. Lo fa o non lo fa? Ora, sembrerebbe che una delle cause più diffuse di morte inspiegata di subacquei, soprattutto professionisti, morte inspiegata in altra maniera, possa essere proprio la presenza di un forame ovale pervio e quindi il passaggio o di un trombo che si forma nelle gambe dall'altra parte, oppure di micro bolle di gas che si formano e che invece di andare verso il polmone vanno al cervello. Questo è assodato. Non avevamo a disposizione tecniche facili fino a pochi anni fa, oggi ne abbiamo di meno invasive, quindi io penso, per essere pratica, che uno che vuole fare attività subacqueo professionale debba fare un accertamento. Professore, lei è d'accordo? Sono d'accordo. Andrei a questi tuoni, lampi e i segnali e i sintomi, però state lì, perché abbiamo anche, intanto saluto Simona da Udine, arriviamo a lei da tra poco, anche Antonio da Treviso, a Francesco daremo spazio a tutte le vostre chiamate 800 24 00 24. Parliamo di queste avvisaglie e anche se ci sono delle persone, mi riferisco agli adolescenti che hanno magari spesso hanno problemi di mal di testa, potrebbe essere l'indicazione ad indagare. Iniziamo dai tuoni lampi, come mi scrive. Allora, intanto è stata associata la emicrania o la cefalea frequente e ripetuta con la presenza di forame ovale pervio. In alcuni casi, alcuni studi hanno dimostrato che chiudendo il forame effettivamente i sintomi di queste emicranie, di queste cefalee migliorano. La domanda è: tutti devono fare allora la ricerca del? Beh, nei casi più gravi sì, perché questo potrebbe cambiare e ridurre la quantità di medicine. Sì. I tuoni, i fulmini e i lampi sono quei segni che spesso noi trascuriamo perché sono transitori. Quali sono i segni più importanti? Un dolore alla testa molto forte che non passa, la perdita di una parte soltanto della funzione del corpo, o a destra o a sinistra, posso perdere completamente la sensibilità di una mano, la capacità di muovere la mano, la difficoltà nel parlare, non riesco ad esprimere il mio pensiero, ma non perché mi inciampo e sono confusa perché non ho dormito bene, perché voglio dire A e invece continuo a dire B, perché ripeto la stessa frase. Di questo si può accorgere solo chi sta sta davanti a me e che mi sta ascoltando, posso perdere la vista, ma non per un attimo perché vedo le lucine nell'occhio, cosa non che può succedere quelle a tutti. Quindi dei sintomi che non debbono essere sottovalutati, perché sono chiamati campanelli d'allarme che in genere le persone di una certa età soprattutto tendono a sottovalutare e che in un giovane possono allarmare. Quando ci sono questi sintomi, è bene che questi sintomi non vengano trascurati e vengano riferiti al medico di famiglia, e in alcuni casi sarà poi il medico di famiglia a riferire il paziente o specialista al pronto soccorso. Andiamo a Udine a risalutare Simona che è in linea con noi. Buongiorno Simona, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno e complimenti per la trasmissione. A molte domande che mi ponevo è stato già risposto. A mio figlio appunto è stato diagnosticato 4 anni fa, io per puro scrupolo gli feci fare un'ecografia cardiaca perché vedevo tutti questi ragazzi che rimanevano sul campo, insomma ero molto preoccupata. Comunque il mago dell'ecografia dell'ospedale di Udine e Santa Maria gli trovò questo disturbo, diciamo, però non gli diede molta importanza, nel senso che lui disse che poteva continuare a fare attività che sta facendo tuttora. Lui gioca a calcio, per cui fa la partita la domenica e 3 allenamenti a livello dilettantistico. Con questa cosa di Cassano vede che le mamme giustamente si preoccupano. Grazie Simona. Simona è proprio sì, esprime un po' la voce un po' di tante mamme che mi hanno scritto. Anche il mio bambino ce l'ha, potrebbe averlo, e fa tanto sport. No, allora limitazioni per lo sport assolutamente non ce ne sono. Quando la signora si riferisce anche a queste morti che avvengono improvvisamente nei campi di calcio facendo sport, teniamo conto che la causa non è è molto raramente una malattia organica o congenita del cuore e mai il patto in forma ovale. Queste morti sono generalmente dovute a malattie che provocano aritmie, malattie spesso genetiche non diagnosticate, ma che sono facilmente diagnosticabili con un semplice elettrocardiogramma. Quindi la raccomandazione per chi fa sport, ma anche per tutti i ragazzi, è fare un elettrocardiogramma. E noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Essere e benessere. In linea con noi abbiamo Antonio, ci chiama da Treviso. Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Volevo farvi i complimenti per la trasmissione e chiedervi l'uso degli antiaggreganti tipo cardirene e aspirinetta può essere utile in generale come prevenzione? Cioè, la domanda di Antonio è: uno prende l'aspirinetta e il sangue. Allora, se Antonio vuol sapere se una persona sana, che non ha mai avuto niente, deve prendere un'aspirinetta o un altro farmaco equivalente, la risposta è assolutamente no. Perché ogni volta che si piglia un farmaco bisogna calcolare quale rischio ci fa correre di avere un effetto collaterale, quale beneficio ci può dare. Se invece Antonio è una persona che ha più di 50 anni, ha il diabete, ha il colesterolo alto e magari anche qualche piccola placca sulla carotide, oppure ha un cuore che si è un po' ingrandito, ha un cuore con le coronarie un po' malate, allora certamente sarà compito del suo medico dargli un farmaco antitrombotico adeguato alla sua situazione. Quindi prendere indiscriminatamente un'aspirinetta per prevenire un ictus in una persona giovane che non ha fattore di rischio non ha senso. Invece giocare un po' sulla prevenzione. Se posso aggiungere una cosa, Ma non mi deve toccare il microfono, se no Carmela Lauricella viene e le dà a me e a lei. In realtà spesso si pensa che i farmaci siano l'intervento anche quantitativamente più efficace per ridurre un rischio. Non è così. Cioè, è stato dimostrato da studi molto chiari che sia prima di aver avuto un evento, ma anche dopo, degli interventi di modificazione dello stile di vita sono molto più efficaci che alcuni farmaci, sicuramente se non si è avuto un evento. Ad esempio, smettere di fumare determina immediatamente una riduzione di rischio che è molto più elevato che non prendere un pochino di aspirina. Quindi il messaggio che deve essere dato è controllare questi fattori di rischio, anche nei giovani. Dobbiamo ricordare che soprattutto le giovani adolescenti e del periodo successivo sono quelle che sono più esposte al fumo, cioè sono quelle in cui vi è un aumento. E poi c'è un intreccio: fumo, dottoressa Rottavender, e pillola anticoncezionale. È vero, è una delle relazioni pericolose di cui abbiamo parlato qualche volta. La pillola anticoncezionale è fantastica perché previene delle gravidanze indesiderate, oppure cura l'ovaio policistico, oppure cura altre patologie, ma sappiamo benissimo che la pillola provoca, in parole molto semplici, un addensamento del sangue che tende a coagulare più del normale. Se mettiamo insieme la pillola e il fumo, il rischio di avere un eccessivo addensamento del sangue, quindi un'ipercoagulabilità, si moltiplica per un fattore moltiplicativo elevato, lo stesso che avviene in gravidanza. Volevo far sentire, adesso Carmelo ve la fa ascoltare, quelli che sono stati considerati i fattori di rischio più legati alla comparsa di ictus ischemico. Cioè, questi due ricercatori dell'Università di Hamilton in Canada, Martin O'Donnell e Salim Yusuf, collaborando al progetto Interstroke, hanno analizzato i dati di 3.000 pazienti e 3.000 controlli, no? Sono le persone sane che servono per il confronto, provenienti da 22 paesi al mondo, e hanno stilato proprio questa top 10 che dimostra, come ci diceva il nostro ospite, il professor Stramba Badiale, che tante volte più la correzione dei fattori di rischio, la riduzione, e quindi fare un adeguato stile di vita, è molto più protettivo che affidarsi banalmente al farmaco. Andiamo a sentirle, perché noi li sentiamo spesso, ma come si dice, repetita iuvant. L'ipertensione, il fumo, l'obesità addominale, la pancetta, una dieta inadeguata, l'attività fisica insufficiente, i grassi nel sangue, il diabete, il consumo di alcol, lo stress e la depressione, le malattie cardiache. Ed è importante notare che 9 di questi 10 fattori di rischio, unico escluso le malattie cardiache, sono anche proprio nella classifica della top 10 dei fattori di rischio per l'infarto, stilata attraverso un altro progetto che è parallelo a quello sull'ictus, stroke, come lo chiamano gli anglosassoni, che è un progetto proprio che si fa sui fattori di rischio per il cuore. Avrei in linea con noi Simone, che ci chiama dalla provincia di Cremona. Buongiorno Simone. Pronto, buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione e complimenti a Radio 24 in generale. E volevo chiedere, sì, l'ematocrito, sì, un po' alto a livello naturale, ecco, può essere considerato un fattore di rischio o semplicemente è una cosa che uno ha appunto? Sì, allora diciamo che cos'è l'ematocrito. Spieghiamo che cos'è l'ematocrito, che non poi tutti lo sanno. Sì. L'ematocrito è la proporzione fra la parte nel sangue della parte liquida e la parte densa, che è fatta di cellule e di sostanze circolanti. Il nostro ematocrito dovrebbe rimanere nella norma se noi siamo sani, beviamo un'adeguata quantità di acqua e non abbiamo una malattia che porta a un'eccessiva produzione, per esempio, di globuli rossi. In alcuni casi gli atleti si disidratano perché non bevono adeguatamente dopo lo sport, e questo può portare a un transitorio addensamento del sangue, ma anche questo, ripeto, non basta da solo. È importante che ci sia qualcos'altro per poter determinare un evento. Una delle cose che può provocare questo evento, sì, ischemico, può essere la presenza nella famiglia o nella persona stessa di un sangue che tende a coagulare troppo. Ci sono alcune mutazioni che possono essere importanti, ma non è questa la sede per citare. Ce ne sono alcune che si credeva che fossero importanti, e non lo sono. L'importante è guardare la storia della propria famiglia. Nelle famiglie nelle quali ci sono state malattie cardiovascolari e cerebrovascolari, perché ormai le mettiamo insieme, è un sistema idraulico comune, le arterie sono uguali nel cervello e nel cuore, si ammalano di aterosclerosi nel cervello, nel cuore e negli altri distretti, chi più chi meno, chi prima chi dopo, ma sono arterie fatte della stessa pasta. Il codice di invecchiamento di queste arterie dipende dalla familiarità, sì, quindi invecchieranno più rapidamente o meno rapidamente secondo da quale famiglia si viene, ma siamo noi che determiniamo la progressione, la rapidità o l'accelerazione con la quale queste arterie si ammalano. Francesco dalla provincia di Messina e Michela da Padova, rapidissimamente perché io ho 2 minuti. Francesco, rapido, buongiorno. No, allora Francesco è caduto, si è spaventato. Spenga la radio, Francesco? No? Passiamo a Michela? Sì, salve. Eccola. Mio marito 10 anni fa ha avuto un ictus ischemico ed è stato messo l'ombrellino. Sì. Ho un bimbo di 1 anno, quando fare gli accertamenti? No, no, direi che non c'è la necessità di fare alcun accertamento e comportarsi esattamente come abbiamo detto in tutti gli altri casi, cioè quindi semmai gli faccia fare un elettrocardiogramma al bambino. E poi lo faccia crescere sano, lo abitui fin da piccolo a mangiare sano, a fare attività sportiva e insegnategli anche a non fumare quando diventerà un adolescente, che è la parte più importante. Questa è la parte più importante, abbiamo detto anche soprattutto per tutti, ragazzi in modo particolare. Abbiamo un minuto proprio per chiudere con alcuni consigli. E... c'è una cosa che io vorrei dire, sì, anche se è una cosa molto scomoda. Dire. È scomoda. Alcuni dei casi di ictus che arrivano in pronto soccorso purtroppo sono legati all'uso di sostanze stupefacenti, io questo lo devo dire, soprattutto nelle persone molto giovani. Quindi attenzione a questi ragazzi che prendono sotto gamba il fatto di bere troppi alcolici, strabere e di usare sostanze stupefacenti. Attenzione, perché è vero che le cellule del cervello si spengono, non si riaccenderanno mai più quelle che si spengono, ma soprattutto andare incontro a degli eventi così devastanti che possono lasciare delle invalidità anche gravi, secondo me i ragazzi lo debbono sapere. Ecco, quindi questo è importante, i genitori devono comunque sì. passare queste informazioni, anche se sappiamo che tante volte i ragazzi ci rispondono con il PIC, fanno finta di non ascoltare, però mi raccomando, informiamo i nostri ragazzi di questo, loro fanno finta di non sentire, ma le informazioni arrivano e possono modificare i loro comportamenti. Certo. Professore. Io darei enfasi oltre a questo anche ai 3 fattori principali di rischio che si possono riscontrare nei giovani, che sono il fumo di sigaretta, l'obesità e l'inattività fisica. Quindi il messaggio che io darei ai giovani e alle mamme è: chi non fuma non iniziare a fumare, chi già fuma smettere di fumare, soprattutto le ragazze hanno un rischio di avere eventi cardio-cerebrovascolari più molto elevato che non i maschi, quindi sicuramente fare attività fisica e avere una dieta equilibrata per non essere obesi. Grazie alla dottoressa Lidia Rotavendera, al professor Marco Strambabadiale. Vi ricordo che sul sito trombosi.org potete trovare preziosi consigli, il sito di ALT, l'associazione lotta alla trombosi, oltre a un'agenda che di un verde bello acceso che ci aiuta, ci accompagna a proteggere il nostro cuore. Grazie, a domani. Essere e benessere.